Buridda è un laboratorio sociale occupato, autogestito, che si trova in centro città, in Corso Montegrappa. È una realtà presente a Genova da tanti anni, ormai da 15 anni. Eravamo in una sede diversa, poi ahimè ci hanno sgombrato e abbiamo trovato una nuova casa 4 anni fa e andiamo avanti con tutti i nostri laboratori. Noi siamo un laboratorio, non siamo un centro sociale, per cui al nostro interno vengono svolti diversi tipi di attività, ovviamente sempre sociali, legate ovviamente al territorio e alla lotta politica. Vi è venuto in mente tra le varie attività quella di sostenere un mercato, ce ne puoi parlare? Allora sì, è un'idea che è nata per amicizia, perché abbiamo amici che lavorano e hanno il banco al mercato coperto di Certosa, seguendo tutte le manifestazioni che si sono create dopo il ponte, dopo il crollo del ponte, abbiamo parlato con loro che sono in netta difficoltà economica, come potete immaginare, perché ovviamente la città si è spezzata in due. E quindi un po' ragionandoci sopra, un po' noi che siamo anche cucinieri in Buridda, perché c'è una cucina popolare, abbiamo pensato che forse l'unica cosa pratica da fare era aiutarli a vendere i loro prodotti. È una cosa interessante questa, perché non so se il dibattito genovese è simile a quello bolognese, ma spesso sugli spazi occupati si fa riferimento a un concetto di legalità, mentre in realtà spesso sono spazi dove si crea valore sociale. Non so se il dibattito è simile anche lì. Guarda, è molto simile, è molto acceso in questo periodo, tra l'altro storico e politico, in cui gli spazi sociali sono presi di mira. Si fa sempre, come dici tu, riferimento all'illegalità. In realtà sono proprio negli spazi sociali che si crea la socialità e forme nuove anche di commercio. Come funziona il gruppo d'acquisto che avete creato? Allora, funziona così. Noi siamo in contatto diretto con il mercato coperto di Certosa attraverso ovviamente contatti personali e quindi anche attraverso la nostra pagina Facebook, e dal mercato il martedì ci arrivano le offerte del giorno dai banchi che aderiscono al GAS, che per ora sono 3 e stiamo cercando di ampliare a tutto il mercato, in modo che sia ovviamente una buona opportunità per tutti. Arrivano le offerte il martedì, noi le pubblichiamo sulle nostre pagine, ovviamente quella dell'LSOA Buridda e delle pagine ovviamente amiche. Le persone vedono le offerte, hanno tempo 2 o 3 giorni fino più o meno al venerdì per ordinare, e noi trasmettiamo l'ordine al mercato coperto e poi il sabato mattina partiamo e andiamo a raccogliere tutti gli ordini e li portiamo in centro città. Quindi li riportate ai cittadini che appunto hanno fatto l'ordine, che magari non avrebbero tempo di raggiungere il mercato? Assolutamente sì, anche perché in questo momento Certosa è raggiungibile con la metropolitana dal centro città, però non tutti hanno il tempo o comunque la possibilità di andare fino a Certosa per recuperare poi gli ordini. Noi facciamo da spola, un po' perché così ci teniamo in contatto con il mercato, capiamo anche come è andata la settimana, e un po' perché comunque le necessità poi di spostarsi a Genova in questo momento sono tante, ma trovano anche tante difficoltà di traffico. E infatti ti volevo chiedere, insomma, a ormai diversi mesi dal crollo del ponte, qual è la situazione? Ma la situazione è drammatica, nel senso che sul traffico non ci sono grandissime novità, nel senso che aprono e chiudono strade per poter smaltire il traffico in Valpolcevera, ma senza grossi successi. Sono state fatte tante promesse, come avete potuto leggere comunque sui giornali, ma di concreto, di aiuti, ancora non ce ne sono stati. Quello che fa sono le associazioni di quartiere e quindi tutti i comitati che sono nati fra gli sfollati e gran parte dei centri sociali e dei laboratori sociali a Genova cercano di dare una mano affinché siano fatte delle cose concrete, siano portati a casa dei risultati. Al momento grossi risultati non se ne sono visti. Quella del vostro laboratorio è l'unica iniziativa, diciamo, solidale che è nata in questi mesi, o ce ne sono anche altre? No, ce ne sono anche altre, sono diverse. Come ti dicevo, sono legato ovviamente all'associazione di quartiere. Noi sabato, te ne cito una perché è fresca, siamo stati con ovviamente tutte le associazioni di quartiere dalla parte anche di San Pier d'Arena, perché noi parliamo di Certosa, ma il ponte è diviso in due la città e quindi c'è tutta la parte di San Pier d'Arena e di via Fillac. Sabato siamo stati come Buridda anche a una manifestazione sotto il ponte, di una serata di svago e di cena sociali. Gli abitanti stessi e gli sfollati si uniscono per stare insieme, per cui ci sono tutta una serie di manifestazioni di questo tipo, anche di gioia nel quartiere, che nascono spontaneamente fra il comitato e le persone poi che aderiscono a queste iniziative.